Il punto di Stefano Folli. I toni su cui Berlusconi sta impostando la campagna elettorale con una massiccia presenza televisiva e senza tema di indispettire i referenti del Partito Popolare Europeo confermano le previsioni. Nelle prossime settimane il vero duello non sarà fra Monti e Bersani, non ce n'è motivo. Il confronto duro sarà fra Berlusconi, giunto alla sua ultima battaglia, e la lista o le liste che appoggeranno il Presidente del Consiglio. Quest'ultimo rappresenterà insomma le posizioni europeiste. Berlusconi invece tenterà di recuperare qualcuno dei suoi voti finiti nell'astensione o nel sostegno a Beppe Grillo, assumendo, come già sta facendo, una linea fortemente demagogica anche in chiave anti-europea quando necessario. Lo scontro sarà dunque aspro. E le avvisaglie le vediamo già oggi nel tentativo del PDL di rinviare lo scioglimento delle Camere oppure di posticipare di qualche settimana la data del voto per ottenere giorni in più da dedicare a questa campagna martellante. C'è da chiedersi cosa pensano o come intendono agire gli europeisti, gli amici di Monti, che ancora sono nel partito di Berlusconi.